Le piacevoli notti, libro primo di Giovan Francesco Straparola. Prima favola della seconda notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Marzia Marianera. Isabella, a cui per sorte aveva toccato il primo luogo della seconda notte, lietamente al favoleggiare diede principio così dicendo. Favola prima. Galeotto, re di Anglia, ha un figliuolo nato porco, il quale 3 volte si marita, e posta giù la pelle porcina e diventato un bellissimo giovane, fu chiamato re porco. Quanto l'uomo, graziose donne, sia tenuto al suo creatore, che egli uomo e non animale bruto l'abbia al mondo creato, non è lingua sì tersa né sì faconda che in 1000 anni a sufficienza il potesse esprimere. Però mi sovviene una favola, a tempi nostri avvenuta, di uno che nacque porco e poscia, diventato bellissimo giovane, da tutti re porco fu chiamato. Dovete dunque sapere, donne mie care, che Galeotto fu re d'Anglia, uomo non men ricco di beni della fortuna che de quelli dell'animo, ed aveva per moglie la figliuola di Mattias, re di Ungheria, Ersilia per nome chiamata, la quale, e di bellezza e di virtù e di cortesia, avanzava ogni altra matrona che ai suoi tempi si trovasse. E sì prudentemente Galeotto reggeva il suo regno, che non vi era alcuno che di lui veracemente lamentarsi potesse. Essendo dunque stati lungamente ambeduo insieme, volse la sorte che Ersilia mai non si ingravidò, il che all'uno e l'altro dispiaceva molto. Avvenne che Ersilia, passeggiando per lo suo giardino, andava raccogliendo fiori, ed essendo già alquanto lassa, adocchiò un luogo pieno di verdi erbette, e, accostatasi a quello, si puose a sedere. E invitata dal sonno e dagli uccelli, che su per li verdi rami dolcemente cantavano, s'addormentò. Allora, per sua buona ventura, passarono per l'aria 3 altiere fate, le quali, veggendo l'addormentata giovane, si fermorono, e considerata la lei bellezza e leggiadria, si consigliorono insieme di farla inviolabile ed affatata. Rimasero adunque le fate, tutte 3 d'accordo. La prima disse: «Io voglio costei inviolabil sia». E la prima notte che giacerà col suo marito si ingravidi, e di lei nasca un figliuolo che di bellezze non abbia al mondo pare. L'altra disse: «Ed io voglio che niuno offenderla possi, e che il figliuolo che nascerà di lei sia dotato di tutte quelle virtù e gentilezze che si possino immaginare». La terza disse: «Ed io voglio che ella sia la più savia e la più ricca donna che si trovi, ma che il figliuolo che ella conciperà nasca tutto coperto di pelle di porco, e i gesti e le maniere che egli farà siano tutti di porco, né mai possi di tal stato uscire, se prima non saranno da lui 3 mogli prese». Partite che furono le fate, Ersilia si destò, e incontinenti levatasi da sedere, prese i fiori che raccolti aveva, ed al palagio se ne tornò. Non passarono molti giorni, che Ersilia si ingravidò, e, aggiunta al desiderato parto, partorì un figliuolo, le cui membra non erano umane, ma porcine. Il che, andato alle orecchie del re e della reina, inestimabile dolore ne sentirono, ed a ciò che tal parto non ridondasse in vituperio della reina, che buona e santa era, il re più fiate ebbe animo di farlo uccidere e gettarlo nel mare. Ma pur rivolgendo nell'animo e discretamente pensando che il figliolo, qual che si fusse, era generato da lui ed era sangue suo, deposto più ogni fiero proponimento che prima nell'animo aveva, e abbracciata la pietà mista col dolore, volse al tutto, non come bestia, ma come animal razionale, allevato e nodrito fusse. Il bambino, adunque, diligentemente nodrito, sovente veniva alla madre, e levatosi in piedi, le poneva il grugnetto e le zampette in grembo. E la pietosa madre all'incontro lo accarezzava, ponendogli le mani sopra la pilosa schiena, ed abbracciavalo e baciavalo, non altrimenti che creatura umana si fusse. Ed il bambino avvinchiavasi la coda, e con evidentissimi segni le materne carezze esserli molto grate le dimostrava. Il porcelletto, essendo alquanto cresciuto, cominciò umanamente parlare e andarsene per la città, e dove erano l'immondizia e le lordure, sì come fanno i porci, dentro se li cacciava. Dopo, così lordo e puzzolente, si ritornava a casa, e accostatosi al padre e dalla madre, e fregandosi intorno alle vestimenta loro, tutte dalle tame gli le imbruttava, e perciò che egli gli era unico figliuolo, ogni cosa pazientemente sofferivano. Tra gli altri, un giorno venne a casa il porchetto, e messosi sì lordo e sporco come era sopra le vestimenta della madre, grognendole disse: «Io, madre mia, vorrei maritarmi». Il che, udendo, la madre rispose: «Pazzo che tu sei, chi vuoi tu che per marito ti prenda? Tu sei puzzolente e sporco, e tu vuoi che un barone o un cavaliere sua figliuola ti dia?» A cui rispose grugnendo che al tutto moglie voleva. La reina, non sapendo in ciò governarsi, disse al re: «Che dobbiamo noi fare? Voi vedete a che condizione noi ci troviamo. Il figliuolo nostro vuol moglie, né fia alcuna che marito prenderlo voglia». Ritornato il porchetto alla madre, altamente grugnendo, diceva: «Io voglio moglie, né mai cesserò infino a tanto che io non abbia quella giovane che oggi ho veduta, per ciò che molto mi piace». Costei era figliuola d'una poverella che aveva tre figliuole, e ciascheduna di loro era bellissima. Questo intendendo, la reina subito mandò a chiamare la poverella con la figliuola maggiore e dissele: «Madre mia diletta, voi siete povera e carica di figliuole. Se voi consentirete, tosto ve ne verrete ricca. Io ho questo figliuolo porco e lo vorrei maritare in questa vostra figliuola maggiore. Non vogliate avere rispetto a lui, che è porco, ma al re e a me, che al fine di tutto il regno nostro ella sarà posseditrice». La figliuola, queste parole udendo, molto si turbò, e venuta rossa come mattutina rosa, disse che per modo alcuno a tal cosa consentir non voleva. Ma pur sì dolci furono le parole della poverella, che la figliuola accontentò. Ritornato il porco tutto lordo a casa, corse dalla madre, la quale gli disse: «Figliuolo mio, noi ti abbiamo trovata moglie e di tuo soddisfacimento». E fatta venire la sposa vestita di onorevolissime vestimenta regali, al porco la presentò, il quale, veggendola bella e graziosa, tutto gioliva, e così puzzolente e sporco la intorniava, facendole col grugno e con le zampe le maggior carezze che mai porco facesse. Ed ella, perciò che tutte le vestimenta le bruttava, indietro lo spingeva. Ma il porco dicevale: «Perché indietro mi spingi? Non ti ho io fatto coteste vestimenta?» A cui ella, superba, alteramente disse: «Né tu, né il tuo reame de porci mai me le facesti». E venuta l'ora di andare a riposare, disse la giovane: «Che voglio io fare di questa puzzolente bestia? Questa notte, come egli sarà in sul primo sonno, io l'ucciderò». Il porco, che non era molto lontano, udì le parole e altro non disse. Andatosene adunque all'ora debita il porco, tutto di letame e di carogne impiastricciato, al pomposo letto con il grugno e con le zampe levò le sottilissime linzuola. E imbruttato ogni cosa di fetente sterco, appresso la sua sposa si coricò, la quale non stette molto che s'addormentò. Ma il porco, fingendo di dormire con le acute zanne sì fortemente nel petto, la ferì, che incontanente morta rimase. E, levatosi la mattina per tempo, se n'andò, secondo il suo costume, a pascersi e inlordarsi. Parve alla reina di andare a visitazione della nuora, e andatasene e trovatala dal porco uccisa, ne sentì grandissimo dolore. Ritornato il porco a casa, e agramente ripreso dalla reina, le rispose lui avere fatto a lei quello che ella voleva fare a lui, e sdegnatosi partì. Non passarono molti giorni che il porco da capo stimolò la madre di volersi rimaritare nell'altra sorella, e quantunque per la reina li fosse contraddetto molto, non di meno egli ostinato al tutto la voleva, minacciando di porre ogni cosa in rovina quando egli non l'avesse. Udendo questo, la reina andò al re e raccontògli tutto, ed egli le disse che manco male sarebbe farlo morire, che qualche gran male egli nella città facessi. Ma la reina, che madre gli era e che li portava grande amore, non poteva patire di rimanere priva di lui, ancorché porco fosse. E chiamata la poverella con l'altra figliuola, ragionò lungamente con esse loro, e poiché ebbero molto ragionato insieme di maritaggio, la seconda accontentò di accettare il porco per suo sposo. Ma la cosa non andò ad effetto sì come ella desiderava, perciò che il porco la uccise come la prima, e di casa tostamente si partì. E ritornato allora debita al palazzo con tanta lordura e letame che per lo puzzore non le si poteva avvicinare, fu dal re e dalla reina per l'eccesso commesso villaniggiato molto. Ma il porco arditamente li rispose, lui avere fatto a lei quello che ella intendeva di fare a lui. Ne stette molto che messere lo porco ancor tentò la reina di volersi rimaritare e prendere per moglie la terza sorella, che era vie più bella che la prima e la seconda. E, essendoli la dimanda al tutto negata, egli di averla maggiormente sollecitava, minacciando con spaventevoli e villane parole di morte alla reina se per sposa non l'aveva. La reina, udendo le sozze e vituperevoli parole, sentiva nel cuore sì fatto tormento che quasi n'era per impazzire, e messo da canto ogni altro suo pensiero, fece venire a sé la poverella e la terza sua figliola, Meldina per nome chiamata, e dissele: Meldina, figliuola mia, voglio che tu prendi messer lo porco per tuo sposo, né aver rispetto a lui, ma al padre suo e a me, che, se tu saprai bene essere con esso lui, sarai la più felice e la più contenta donna che si trovi. A cui Meldina, con sereno e chiaro viso, rispose che era molto contenta, ringraziandola assai che si dignasse accettarla per nuora. E quando altro ella non avesse, le sarebbe bastevole di poverella in un istante esser venuta nuora d'un potente re. Sentendo la reina la grata ed amorevole risposta, non puote per dolcezza gli occhi dalle lacrime astenere, ma pur temeva non avvenisse a lei come alle altre due era venuto. Vestitasi la nuova sposa di ricche vestimenta e preziose gioie, aspettò lo suo caro sposo che venisse a casa. Venuto che fu messer lo porco, più lordo e sporco che mai si fusse, la sposa benignamente lo ricevette, distendendo la sua preziosa veste per terra, pregandolo che si coricasse appresso lei. La reina le diceva che lo spingesse da parte, ma ella ricusava di spingerlo, e tai parole alla reina disse: Tre cose ho già sentite raccontare, sacra corona veneranda e pia. L'una, quel che è impossibile trovare, andar cercando è troppo gran pazzia. L'altra, a quel tutto fede non prestare, che in sé non ha ragion né dritta via. La terza, il dono prezioso e raro, c'hai nelle mani, fa che il tenghi caro. Messer lo porco, che non dormiva, ma il tutto chiaramente intendeva, levatosi in piedi, le ungeva il viso, la gola, il petto e le spalle, ed ella all'incontro l'accarezzava e baciava, sì che egli tutto d'amore si accendeva. Venuta l'ora di posare, andossene la sposa in letto, aspettando che il suo caro sposo se ne venisse, e non stette molto che il sposo, tutto lordo puzzolente, se ne andò a letto. Ed ella, levata la coltre, se lo fece venire appresso, e sopra il guanciale li conciò la testa, coprendolo bene e chiudendo le cortine, a ciò che freddo non patisse. Messer lo porco, venuto il giorno e avendo lasciato il materasso pieno di sterco, se ne andò alla pastura. La reina la mattina andossene alla camera della sposa, e, credendosi vedere ciò che per lo addietro delle altre due veduto aveva, trovò la nuora allegra e contenta, ancor che il letto tutto di lordura e carogne imbruttato fusse, e ringraziò il sommo Iddio di sì fatto dono, che il suo figliolo aveva trovata moglie di suo contento. Non stette gran spazio di tempo che messer lo porco, essendo con la sua donna in piacevoli ragionamenti, le disse: Meldina, moglie mia diletta, quando io mi credessi che non appalesassi ad alcuno l'alto mio secreto, io, non senza grandissima tua allegrezza, ti scoprirei una cosa che finora ho tenuta nascosta. Ma perciò che io ti conosco prudente e savia, e veggio che mi ami di perfetto amore, vorrei di ciò farti partecipe. Sicuramente, scopritemi ogni vostro secreto, disse Meldina, che io vi prometto di non manifestarlo senza il vostro volere ad alcuno. Sicurato adunque messer lo porco dalla moglie, si trasse la puzzolente sporca pelle, e un vago e bellissimo giovane rimase, e tutta quella notte con la sua meldina strettamente giacque. E, impostolo che il tutto dovesse tacere, perciò che era fra poco tempo per uscire di siffatta miseria, si levò di letto, e presa la sua spoglia porcina, alle immondizie, sì come per l'addietro fatto aveva, si diede. Lascio a ciascuno pensare quanto e qual fosse l'allegrezza di Meldina, veggendosi accompagnata con un sì leggiadro e sì pulito giovane. Non stette guari che la giovane si ingravidò, e venuta al termine del suo parto, partorì un bellissimo figliuolo, il che al re e alla reina fu di grandissimo contento, e massimamente che non di bestia ma di creatura umana teneva la forma. Parve a Meldina esserle molto carico tener celata così alta meravigliosa cosa, e andatasene alla suocera disse: «Prudentissima reina, io mi credevo essere accompagnata con una bestia, ma voi mi avete dato per marito il più bello, il più virtuoso e il più accostumato giovane che mai la natura creasse. Egli, quando viene in camera per accoricarsi appresso me, si spoglia la puzzolente scorza, e in terra quella disposta un attilato e leggiadro giovane rimane, il che niuno potrebbe credere se con gli occhi propri non lo vedesse». La reina pensava che la nuora burlasse, ma pur diceva da dovero, e addimandatalo come ciò potesse vedere, rispose la nuora: «Verrete questa notte sul primo sonno alla camera mia e troverete aperto l'uscio e vederete ciò che io vi dico essere il vero». Venuta la notte e aspettata l'ora che tutti erano andati a posare, la reina fece accendere i torchi e con il re se n'andò alla camera del figliuolo, e entratavi dentro trovò la porcina pelle che da l'un lato della camera era posta giù in terra, e accostatasi la madre al letto vide il suo figliuolo essere un bellissimo giovane, e Meldina sua moglie in braccio strettamente lo teneva. Il che vedendo, il re e la reina molto si rallegrarono, e ordinò il re che, avanti alcuno indi si patisse, la pelle fusse tutta minutamente stracciata, e tanta fu l'allegrezza del re e della reina per lo rinnovato figliuolo che poco mancò che non se ne morissero. Il re Galeotto, veggendo avere sì fatto figliuolo e di lui figliuoli, depose la diadema e il manto regale, e in suo luogo con grandissimo trionfo fu coronato il figliuolo, il quale, chiamato re Porco, con molto soddisfacimento di tutto il popolo resse il regno, e con Meldina, sua diletta moglie, lungo tempo felicissimamente visse. Fine della storia. Era già ridotta al suo termine la favola da Isabella raccontata, quando gli uomini e le donne sommamente si ridevano de Messer lo Porco tutto inlordato che accarezzava la sua diletta moglie e così impiastricciato da fango con lei giaceva. «Ma poniamo», disse la signora Lucrezia, ormai il rider da parte, a ciò che Isabella, proponendo il suo enimma, l'ordine seguisca. La quale, con allegro viso, così disse: «Vorrei che tu mi desti, o mio signore, quel che non hai, né sei per aver mai. S'avesti andare al mondo con tuo onore, mill'anni e più di vita ancora assai. E se tu il pensi aver, vivi in errore, e come cieco per la strada vai. Ma se, come mi mostri, il mio ben vuoi, dammel, non tardar più, che darmel puoi». Raccontato che fu da Isabella lo ingegnoso enimma, tutti stupefatti rimasero, né poteansi persuadere che uno dovesse dare quello che egli non aveva, né era per lo innanzi per avere. Ma la prudente Isabella, vedendo i loro animi tutti sospesi, disse: «Non vi maravigliate, signori miei, perciò che l'uomo può dare alla donna quello che egli non ha, né è per avere, cioè l'uomo non ha marito, né mai è per averlo, ma ben può l'uomo dare alla donna marito». Fine della prima favola della seconda notte. Registrazione di Marzia Marianera.